La borsa della spesa. Ma questo caffè sa di moquette bagnata. Guardi, guardi, c'è qualcosa di strano, In effetti c'è più fondo del solito. Ma che strano! Sembra un uovo vicino a un fuoco. Dici? A me sembra il fondo di un caffè. Oddio, oddio, ho bruciato le uova. No, avevi ragione tu. Uova, fuoco. Patti, ma tu leggi il futuro di fondi di caffè? Ma secondo me no. Poi leggi anche il mio. Oh, signorina Patti, lei è come la maga della TV. Devo darle anche 50 euro. Camera Caffè, l'avrete sicuramente riconosciuta, la sitcom che ha reso popolare la macchinetta per la cosiddetta pausa caffè, la consacrazione definitiva per uno dei simboli del boom anni 60 che nonostante la crisi resta in crescita. Le vending machine in Italia sono ormai 2 milioni e mezzo, una ogni 25 abitanti, il settore fattura oltre 2 miliardi e mezzo di euro per prodotti che vanno dal caffè al latte fresco, passando per abbigliamento, libri, medicine, persino gioielli. Le location non comprendono più solo uffici, scuole, ospedali e stazioni, i distributori automatici, insomma, sono considerati la nuova frontiera dello shopping e le macchinette del futuro, dotate di webcam e riconoscitori biometrici, interagiranno sempre di più con il consumatore, ci dice Luca Pinetti, presidente di Confida, l'associazione italiana dei distributori automatici. Beh, è un settore che nel commercio riesce a implementare con grandissima velocità le ultime tecnologie. L'abbiamo visto nella nostra ultima fiera Venditalia, nella quale sono stati presentati distributori full touchscreen con sistemi di controllo in remoto molto sofisticati, con una serie di innovazioni anche per quanto concerne l'interfaccia con il consumatore, quindi in termini di informazioni, di selezioni, di flessibilità dell'offerta, quindi sicuramente un comparto che può attraversare i canali tradizionali, quindi il caffè, le bevande calde, e sfociare nell'offerta di qualsiasi prodotto. In un futuro neanche troppo lontano, grazie alle forme di pagamento virtuale, si potrà offrire il caffè a un amico, magari dall'altra parte del mondo. Assolutamente, già oggi si può fare, per esempio utilizzando dei social, identificando un mi piace sul cappuccino, potremmo avere macchine che quando ci intercettano, passando davanti, ci chiedono se vogliamo il solito, oppure possiamo offrire con sistemi di pagamento già oggi disponibili un prodotto erogato dall'altra parte del pianeta ma pagato magari da un amico altrove. Questa è proprio la dimostrazione di quanto dicevo prima, di come il vending sia in grado di fare proprie le ultime tecnologie per declinarle invece sulle proprie offerte. Come vedete voi l'ampliamento della gamma di prodotti offerti? Oggigiorno ci sono nei distributori automatici dai libri all'abbigliamento, persino i gioielli. Questo è un cambiamento importantissimo per il nostro settore. Noi usiamo dire che il vending è passato da canale di somministrazione, quindi al luogo dove venivano somministrati dei prodotti all'interno delle fabbriche, a tecnologia disponibile, il che significa che non è più un canale, ma è uno strumento che può essere impiegato da qualsiasi altro settore del retail, quindi non solo caffè, ma qualsiasi cosa possa essere somministrata. Oggi diciamo che anche i distributori sono molto più flessibili in termini di accoglienza dei prodotti, sia le dimensioni che i materiali possono essere più svariati. Questo naturalmente apre una serie di possibilità anche come offerta integrativa, un negozio tradizionale che si dota di un distributore automatico per estendere gli orari, per esempio, dell'offerta, un piccolo supermercato che per ridurre la fila alle casse può inserire i prodotti con maggiore rotazione all'esterno o oltre le casse, la stessa ginseria, come diceva lei, che potrebbe utilizzare una vetrina, quindi anche pubblicitaria, per distribuire poi i prodotti. Quindi le possibilità e le flessibilità sono altissime, le vediamo già dai profumi ai prodotti di elettronica ai prodotti di abbigliamento. È l'inizio di una nuova era, siamo proprio nel punto di flesso del nuovo vending.